Beh, no, l'unica cosa che posso dire è che effettivamente se ne sa poco. Se confronti con altre esperienze europee, soprattutto diciamo nordamericane, penso agli Stati Uniti, anche un po' al Canada, all'Australia, appunto lì Harvard, Princeton, Stanford, Berkeley, c'hanno tutte, Georgetown, c'hanno tutta una cattedra di storia dell'ambiente. Ora, a parte il fatto che io desidererei tanto avere una cattedra, ma lasciate un attimo stare il mio problema economico, diciamo, contingente, credo che questo significhi anche qualcosa, cioè il fatto che noi non pensiamo, in Italia non si pensi che per essere, se vuoi fare l'ingegnere o se vuoi fare lo storico, il filosofo, devi anche capirci qualcosa dell'ambiente, significa, penso che significhi qualche cosa. Come definizione di storia dell'ambiente io me ne do solo una e poi passo subito la parola. Ed è, c'è una bella definizione di Richard White. Richard White è uno storico ambientale che lavora nell'Università di Stanford e lui dice, immaginate di scrivere la storia, facciamo conto che dobbiamo scrivere la storia di la biografia di un matrimonio. Cioè, se io devo scrivere la biografia di una coppia, io posso scrivere la biografia di uno, la biografia dell'altro o dell'altra, metterla insieme, cucirla insieme e dire ok, ho scritto la storia di questa coppia. In realtà non è vero, abbiamo scritto le biografie di due tipi o di due tipi o di un tipo e una tipa. Quello che manca è la relazione tra questi due tipi o queste due tipe. E lui dice la storia ambientale si colloca dentro questo, non vuole scrivere la biografia della natura e poi fare la biografia della società e spillarle insieme, ma quello che ci importa è scoprire le relazioni che ci sono tra le due cose. Secondo me è la definizione migliore di storia dell'ambiente, credo. Ecco, io, come dire, le definizioni disciplinari sono sempre delle comode gabbie nelle quali non, è anche bene non farsi rinchiudere, no? Per esempio, però se dovessi usarne una per questo libro, nonostante nessuno possa dubitare che Marco Armiero è uno storico ambientale per certi versi, questo no, secondo me è un libro di storia culturale se dovessi scegliere una gabbia. E per storia culturale, usando questa gabbia invece che quell'altra, intendo semplicemente sottolineare che qua non ci si occupa affatto specificamente dell'ambiente, ma ci si occupa anzi di smontare un'idea diffusa e ritenuta micidiale dall'autore, secondo la quale l'ambiente esiste in sé. Le affermazioni così spiazzanti e divertite che fa all'inizio, nell'introduzione, ci fanno, dice, ma voi forse avete sempre pensato che le montagne sono la cosa più ferma che esista. Le montagne sono mobili, sono dinamiche, dice lui, no? E sono dinamiche perché in realtà sono il prodotto non solo dell'interazione con chi le abita, ma delle strategie interpretative e narrative che gli vengono applicate. E quindi in realtà le montagne di cui ci parla parlando del brigantaggio sono montagne completamente diverse da quelle che conosceremo nell'epoca fascista e da quelle che conosceremo durante la Resistenza, eccetera. Si prestano cioè a narrazioni diverse e interagiscono con pezzi di storie diverse. Da questo punto di vista, questa è una storia d'Italia a partire da ciò che accade fra le montagne, i processi di modernizzazione, le strategie statuali, le opposizioni a queste strategie che hanno a che vedere con questo ambiente. Ma in questo senso, voglio dire, non è strettamente una storia dell'ambiente, quanto piuttosto una storia culturale dell'Italia, intendendo con culturale appunto una capacità di ritessere le infinite interazioni che esistono fra i piani di storia economica, di storia sociale, di storia politica e di storia anche della natura. No, perché un altro dei concetti fermi che vengono qua finalmente dinamizzati è l'affermazione che la natura in sé non esiste se non come produzione dell'uso che se ne fa, dell'interpretazione che se ne fornisce, delle contraddizioni che esplodono fra chi vi vive, chi decide che devono viverci in un modo o in un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, io non vorrei anticipare quello che poi diremo più avanti, però mi ha colpito nella brevissima introduzione che hai fatto alla materia il fatto che tu abbia detto come la storia ambientale in altri paesi viene considerata una materia importante non soltanto per chi studia la storia, ma anche per esempio per un ingegnere, no? Ecco, penso che qui in Italia in modo particolare si veda come invece questa materia non è conosciuta da chi poi sul territorio interviene, no? Con grandi o piccole opere. Probabilmente c'è una idea di ambiente che in realtà tiene fuori lo sviluppo storico dello stesso, no? E quindi che alla fine, secondo me, non è in grado di cogliere il significato di quello che sta inscritto nel paesaggio o in ciò che ci circonda. Nelle valutazioni di impatto ambientale, per esempio, delle opere, non si citano quasi mai questioni di questo genere, no? Sono valutazioni di tipo, tutt'al più, quando ben fatte, geologico, statico, che riguardano magari gli ettari di bosco che verranno sbancati e il fatto che verranno sostituiti da gradoni e quanto tempo ci metteranno quei gradoni piantumati a ritornare simili a un bosco vero e proprio, ma non ci si interroga se la cicatrice che si sta facendo sul territorio, per esempio, è una cicatrice che si sta facendo sul volto del territorio oppure sulla schiena, no? Perché la stessa cicatrice, un individuo, se ce l'ha sulla faccia o ce l'ha sulla schiena, sono due cose completamente diverse, no? Che cambiano anche la sua identità. Se hai la cicatrice sulla faccia, sei un tipo con una cicatrice. Se ce l'hai sulla schiena, no, no? Sei in qualche modo una persona che non ha una cicatrice. Ecco, probabilmente lo studio di questa materia da parte anche di chi fa questo genere di interventi darebbe la capacità di comprendere anche appunto il significato, il senso del paesaggio inteso proprio come storia nell'accezione più ampia, cioè come un libro che ti racconta una storia delle trasformazioni, degli impatti culturali e che molto spesso però se non sei abituato a leggere, cioè è un alfabeto, no, in qualche modo il paesaggio, se non sai come leggerlo non ci leggi niente, sono semplicemente dei segni come sono dei segni sulla carta per un bambino di 2 anni le lettere del nostro alfabeto. Io sono contenta di essere qua con Marco a discutere il suo libro. È un libro che l'ho letto rapidamente e mi è piaciuto molto. Devo dire che quasi con invidia avrei voluto essere io a averlo scritto, questo libro. No, c'è molto di naturalmente di tutti gli studi che Marco ha fatto e poi degli studi che altre persone hanno, sono citata, però c'è tanti altri amici che sono citati e ricordati anche qui presenti nel libro, perché non saprei definirlo un libro di storia culturale, ecco. Marco Almiero è conosciuto come storico dell'ambiente. Alcuni di noi si sono cimentati in storia dell'ambiente senza essere storici dell'ambiente. Io insomma, non avrei fare profilo autobiografico di me stessa, però è capitato, come si discute di gender, no? Di genere all'interno della storiografia, è impossibile parlare di una storia sociale, di una storia della nazione, visto che abbiamo in maniera quasi pontificato i 150 anni della nazione italiana, non è possibile in maniera concreta parlare di storia italiana come di qualsiasi altre storie nazionali senza parlare dell'ambiente. Dell'ambiente, della trasformazione dell'ambiente, ma del rapporto degli umani, degli abitanti e dei governi e delle istituzioni con l'ambiente. Quindi molti di noi si sono cimentati in questo senza poi costruirsi in qualche maniera, come ha fatto Marco, che poi è entrato anche in una serie di saggi proprio nell'ambito storiografico, anche del dibattito, e non solo del dibattito, anche dell'attività, perché bisogna ricordare che Marco è napoletano e sui rifiuti e sul problema dei rifiuti si è molto impegnato alcuni anni fa, come se i rifiuti oggi non fossero scomparsi invece. Però ecco, quindi in qualche maniera c'è un po' di tutto, c'è la nostra professione di storici o la professione di narratori e anche un tentativo civile di confrontarsi con la storia del proprio paese e non soltanto con la storia del proprio paese. E, quindi, però bisogna anche dire che Marco Arniero è una delle poche persone che io conosco, e mi sfuggono eventualmente altri, però, che ha continuato con tenacia questo lavoro sulla storia dell'ambiente. Perché se ricordo una serie di incontri, di seminari che avevamo fatto alla fine degli anni 90, all'inizio del nuovo secolo, e avevo portato a ricordare questo ambiente dei territori e parchi, che era un numero che era stato curato da me, ma non perché era stato curato da me, ma perché guardo la data, il 98. 98 eravamo in pieno dibattito su alcuni, cioè alcuni storici cominciavano a affrontare qui. C'è la Prima Guerra Mondiale, c'è Comacchio e le Valli, c'è un po' di tutto, c'è il Bosco. Ecco. Tra l'altro la cosa che mi ha colpito, vado veramente così con alcuni pensieri così un po', quest'anno pochi sanno che è l'anno del Bosco, adesso forse parlerò, l'anno del Bosco. In altri paesi sul Bosco si è parlato, si è discusso molto. Questo è un libro, e chiederò poi a Marco, perché poi discuteremo, non è che discutiamo solo con loro, dobbiamo discutere tra di noi, se veramente è la montagna il soggetto, il soggetto di questo libro, o se c'è tanto, ma il Bosco è è l'alter ego in questo libro. Qui ci sono storie, ci sono azioni, ci sono miti, ma c'è anche molto il Bosco. Ecco, per esempio, è questo libro che è scritto in inglese e che uscirà, vi dicono, fra 2 anni in italiano, sarebbe caduto molto bene in Italia oggi, quest'anno, sull'anno del Bosco, non soltanto per andare a piantare qualche alberino in giro con le scuole, ma proprio per discutere delle vicende del Bosco. Delle vicende del Bosco, che è la vicenda un po' anche della montagna in tutto il mondo. Perché è il depauperamento dell'ambiente, l'abbiamo visto, cioè è all'origine di tante catastrofi naturali, è la fuga, è il rapporto, è lo scontro in montagna tra coloro che vivono del bosco e coloro che il bosco lo vogliono distruggere per farne pascolo. Cioè è uno scontro quasi primordiale del controllo dell'ambiente. Ed è uno scontro che noi troviamo in Italia essenzialmente in montagna, perché i boschi, a parte alcuni grandi boschi distrutti anch'essi, come la pineta di Ravenna e altri, sono boschi montani. E quindi è anche la storia di questo tipo di ambiente. Non so quanto abbiamo tempo, quindi brevemente. Allora voglio fare soltanto una ultima riflessione, poi magari facciamo un altro giro. A un certo punto io andavo alla ricerca anche del filo conduttore, al di là del titolo e della ricchezza dei riferimenti, dell'analisi, perché in questo libro c'è letteratura, c'è storia, c'è attualità, perché si va, l'ultima parte, dal Vajonte, ma si va anche si va alla questione in Piemonte, come del TAV, come al dopo terremoto all'Aquila. Ma c'è una frase che in sostanza lo storico guarda subito, perché dice: ah, Italia, montagne e il creare dell'Italia moderna. Una frase che dovrebbe ricordare che la storia della montagna, la nazionalizzazione e la storia italiana è anche qui dice la storia nascosta della nazionalizzazione delle montagne, o almeno delle montagne, landscape, dell'ambiente montano. E in sostanza uno degli argomenti qua è che nazionalizzazione, cioè che cosa avviene in Italia una volta che l'Italia è unificata. Se al di là dei processi di modifica delle montagne e del bosco, degli attori della montagna e del bosco, delle istituzioni, degli antichi stati italiani, se effettivamente la nazionalizzazione, cioè la nascita dell'Italia unita, di questa nascita la montagna e ciò che vive in montagna, vegetale e non vegetale, abbia in qualche maniera beneficiato, no? E qui, di fronte a questa domanda, mi pare che ci sia subito la risposta: un precipitare della situazione montana dopo l'Unità d'Italia, dopo una serie di interventi, una serie di dinamiche, che poi sono anche le dinamiche della modernizzazione del nostro paese. O se parliamo della nazionalizzazione, e qui potremmo parlare del Sud anche dopo, è uno dei temi che, quando parlavamo spesso anche di ambiente negli anni 90, non era tanto la nazionalizzazione quanto la colonizzazione del nord verso il sud, e prima ancora dell'industrializzazione dell'Italia, e quindi anche di una visione del sud, di una trasformazione profonda del sud fatta da parte di quella del nord. Anche su questo si può discutere, come leggere questa nazionalizzazione. E tutte le nazionalizzazioni, come tutte le colonizzazioni, portano a una trasformazione radicale dell'ambiente e soprattutto delle montagne e dei boschi. Mi è venuto in mente, ma non c'entra con questo libro, ma c'entra. Poco più di un mese fa ero in Nuova Zelanda, e se uno guarda territorio protetto come l'Australia, ormai molto protetto sul piano ambientale, ma se guarda la carta di 200 anni fa dell'Australia e oggi, dall'arrivo dei bianchi ad oggi, i boschi e quindi la parte delle montagne interne è stata depauperata a livello di ambiente del 70%. Quindi è un fenomeno di, chiamiamola, colonizzazione, di modernizzazione, che ormai tocca, su cui ci si può confrontare, e tocca moltissimi paesi, tutti i paesi. È un processo di globalizzazione su cui però la specificità italiana andrebbe, se abbiamo tempo, discussa con molta... visto che anche il tipo di persone che sono qua penso che siano anche interessate non solo alla storia ma all'attualità, credo che sia importante anche discuterlo partendo anche dall'attualità. E poi